Ritrovati ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre Jean-Luc. Ospiti anche stasera, questa volta con noi una band veneziana e un po' veronese che viene a presentarci il suo primo disco. Come sempre a voi le presentazioni. Ciao a tutti, siamo i Teodasia e siamo qua per proporvi il nostro rock sinfonico con il nostro album Upwards che è appena uscito nei negozi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao. Come al solito iniziamo la puntata con il classico viaggio musicale nel passato e prima parte con il prog rock degli anni 70, partito con i Curved Air che dal disco Second Album del 1971 ci hanno fatto ascoltare il brano Backstreet Love, band guidata dalla carismatica Sonia Cristina che ha saputo trovare un giusto equilibrio tra rock, folk e musica classica. Che ne pensate? Beh, un pezzo secondo me è bellissimo, la voce molto particolare e piacevolissima e... erano anni, secondo me, di grandissima sperimentazione e si apriva proprio il mondo della musica in quegli anni e secondo me anche questo disco è stato un mattoncino in più in tutto quello che è stato il prog e l'hard rock di quegli anni. I Teodasia sono attivi dal 2006, come vi siete formati e perché questo nome? Beh, dunque, noi siamo attivi dal 2006 per mano del nostro compositore che è Francesco. Vero Francesco? Sì, è vero. Beh, niente, io nel 2006 sono partito con questo progetto che appunto che è stato un po' travagliato arrivare alla formazione attuale, diciamo, normale, quella, insomma, ecco. Esatto, quella è stato un percorso molto difficile, molto lungo e però ha le sue soddisfazioni. E direi Ne ha tante. Proseguiamo con la musica ascoltando i Renaissance. La band di Michael Dunford trova stabilità dopo un periodo burrascoso grazie all'inserimento della straordinaria cantante Annie Haslam. Nel 1973 esce il disco Ashes Are Burning, che contiene Carpet of the Sun. Down into the world of seeing, come and you'll be free. Take the time to find the feeling, see everything on its own, and you'll find you know the way, and you'll know the things you're shown. Oh, everything to the sunshine, warmth around you, sounds from far away, music of the love that found you, the seed that you plant today, tomorrow will be a tree, and living goes on this way, it's all part of you. Sonorità eteree, musica classica e folk, i Renaissance, nonostante siano rimasti una band di culto, hanno influenzato anche nomi odierni della scena musicale, come ad esempio i Blackmore's Night, che hanno anche ripreso alcune loro canzoni. Che ne pensate? Beh, questa canzone è fantastica. Io poi sono un appassionato di folk e devo dire che appunto questa musica crea molto, diciamo, un connubio perfetto tra folk e tra musica classica, riprendendo citazioni e allusioni, diciamo, al materiale classico come Bach, Chopin. Certo. Insomma, è molto strutturata e allo stesso tempo molto melodica e moderna come canzone. E Checco, tu volevi dire qualcosa in relazione? Sì, io dico semplicemente due cose, cioè che la voce è molto avvolgente, cioè proprio ti sembra una coperta che avvolge. E l'altra cosa è che ho notato che c'è un arrangiamento di orchestre che è molto Barry White e mi è piaciuto il connubio tra... Sì, sì, i violini sono sempre sulle note alte, è molto, molto interessante, certo, come cosa. Vostre performance, come sono andate e quali le impressioni del pubblico a fine concerto? Fabio? Sì, noi abbiamo fatto una serie di concerti in questo anno, anche prima che uscisse Upwards. Abbiamo fatto anche dei palchi importanti, per esempio con gli Elvenking a Pordenone. Sono andate molto bene, la gente l'abbiamo sentita molto bene, anche dopo il concerto, nonostante Upwards non fosse ancora uscito, venivano là a chiederci com'era, quanto tempo ci voleva ancora, e loro hanno lasciato un po' di video, sono venuti incontro. Bello, la gente mi è sentita molto bene, ci è servito molto questo per andare avanti, perché ci sono stati dei momenti difficili quando stavamo cercando di... Esatto, e ci sono stati molto utili. Bello. Questa prima parte finisce con i tedeschi Frumpy, guidati dalla cantante Inga Rumpf, dai forti accenti blues, si è ritagliato uno spazio nella storia del prog rock grazie ad un sound compatto e a dischi molto interessanti, dall'album How We Changed del 1970, la canzone Life Without Pain. Thank you.